Lei mi dice che è stato un piacere conoscermi e grazie per il prestito. E che l'Italia è piccola e magari ci si vedrà. Invece l'Italia è enorme e io non la rivedrò mai più. Ne sono già convinto, mentre la vedo avviarsi verso il suo gate, dopo avermi dato un bacio sulla guancia al profumo di birra. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08 minuti, questa era di 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Poi dopo sistemiamo questa cuffia che continua ad essere solo da una parte. Avete presente quei compagni di viaggio che incontrate per caso quando state facendo una vacanza? O quando state facendo proprio un viaggio, un cammino, un percorso, vi state spostando da un posto all'altro? Questa cosa accade di solito e soprattutto quando si viaggia da soli. Cioè, non è vero, in parte accade anche se si è in coppia oppure se si è in famiglia, vale anche così. Però quando si è da soli accade di più. Mi è accaduta questa cosa mentre tornavo lo scorso fine settimana in transito da un aeroporto all'altra. Questa cosa però mi è successa più di una volta e se ci pensate è successa anche a voi prima o poi. Mi è successa in particolar modo e mi è venuta in mente proprio un attimo prima di andare in onda, quando tornando da un volo da New York, quindi era un volo lungo, mi sono trovato seduto di fianco a questi due signori, una coppia anziana che stava venendo in Italia in vacanza. Loro due erano di San Diego, quindi si erano già fatti 2 ore di macchina per arrivare a Los Angeles, 6 ore di volo per arrivare a New York e altre 8 per arrivare in Italia. Loro avevano tra gli 80 e 85 anni, erano molto arzilli però. Mi hanno raccontato un pochettino della loro vita, come sempre accade quando incontri delle persone con cui viaggi e con cui c'è un minimo di sintonia. La cosa però interessante del loro viaggio era che suo marito era già stato in Italia ed era stato in Italia durante la guerra. Era stato in Sicilia, c'era rimasto qualche mese e poi quando tutto quanto era finito lui se n'era tornato negli Stati Uniti e c'era una certa emozione nella voce di quest'uomo che tornava in Italia dopo 50 anni e ritornava in un posto che aveva visto praticamente devastato dalla guerra. Ecco, sono questi piccoli percorsi che si fanno con le persone che si incontrano durante un viaggio che in un modo o nell'altro ti rimangono attaccati addosso, non so bene il perché, anche se però penso che abbia a fare con la solitudine che si prova quando si è in viaggio. 800 24 00 24 oppure 349 238 6666. Sono già arrivati diversi messaggi che mi raccontano questa cosa sul profilo Facebook, in particolar modo che è Matteo Caccia, io sono qui, e ce n'è uno che parla proprio di questa cosa qua, del fatto della solitudine di quando si viaggia. È firmato Moki, quindi credo sia una donna, però perché parla al femminile. Credo segretamente che sia uno dei motivi per cui io adoro fare viaggi in solitaria. Nell'arco degli anni ho conosciuto un sacco di persone così per caso, persone che semplicemente stavano controllando lo stesso menù del ristorante a Bali e con cui ti trovi seduto dopo 20 minuti a parlare di tutto. Persone a cui racconti episodi della tua vita che neppure quelli che ti stanno accanto da sempre conoscono. Non giudichi e non sei giudicato, impari e forse qualche volta insegni pure. Bello. 800 24 00 24 oppure 349 238 6666, perché oggi è proprio di compagni di viaggio che io vi racconto e che mi piacerebbe voi mi raccontaste, di quelle persone che sono entrate per un attimo nella nostra vita e poi ne sono uscite, un po' perché ce ne siamo andati noi e un po' perché se ne dovevano andare loro. Michela mi scrive un messaggio che ha proprio questo sapore. Corso di vela in Bretagna 2006. Cyril è stato il mio compagno di vela, tra tanti il preferito. Intelligente, curioso delle cose e delle persone, ma discreto, mai banale, spiritoso, leale e fidato. In barca eravamo molto affiatati, di quell'affiatamento che nasce dall'affinità di due caratteri diversi, io esuberante ma in fondo timida, lui invece riservato ma molto forte. Però persone che condividono gli stessi principi di fondo, ci si intendeva senza parlare, si rideva insieme meravigliosamente, nonostante le mie difficoltà di parlare francese. Entrambi fidanzati, abbiamo vissuto la nostra affinità come una bella amicizia. So che anche per lui è stato così, è stato bello conoscermi e il suo abbraccio di addio e il suo sorriso lo ricorderò come sempre, per sempre, come una delle cose belle che la vita mi ha regalato inaspettatamente. 800 24 00 24 oppure 349 238 6666. Compagni di viaggio incontrati ovunque, sui voli in aereo, sui viaggi in traghetto, in treno, magari quelli lunghi, quelli di una notte, ma anche in auto se avete caricato degli autostoppisti o se eravate degli autostoppisti, ma valgono anche le vacanze organizzate, i corsi, quello di vela ne è un esempio. 800 24 00 24, 349 238 6666. La mia compagna di viaggio qualche giorno fa era questa qua. Essendo nato in un paese molto piccolo, ho sempre avuto il sogno di viaggiare. E fortuna vuole che un pochettino ci sia riuscito. L'unica cosa che non tollero e per cui mi arrabbio ogni volta è la mia paura di volare, ve ne ho già parlato. Per me è solo che quando vedo un aereo succede così, me la faccio addosso. La prima puntata di Lost per me è stata un incubo, ma non mi ha sorpreso per niente alla fine. Cioè, che cada un aereo non è una gran notizia, è normale, no? C'è un oggetto pesantissimo che sta a mezz'aria, è strano che non precipiti piuttosto. Non c'era bisogno di quel genio di Newton per capirlo. Cioè, l'uomo non è fatto per volare, anzi, di certo io non sono fatto per volare. E quando, che sia per vacanza o per lavoro, mi tocca e non posso farne a meno, è veramente un disagio. Sì, il paracadute, vabbè, quella è un'altra cosa, quella è una piccola magia. Però anche lì l'adrenalina ti toglie il respiro, no? C'è un terrore assoluto, ti prende, vabbè, ma quella è un'altra storia, ve l'ho già raccontata. Con il tempo mi sono costruito delle strategie che mi consentono di viaggiare, comunque, senza grossi problemi. Però ogni volta che mi allaccio la cintura, prima del decollo, mi vengono in mente tutti i film in cui c'è un condannato a morte che viene legato alla sedia elettrica. Non è incoraggiante, no? C'è un momento però che mi godo particolarmente nell'esperienza del volo. È l'atterraggio. Ma non tutti gli atterraggi, eh? No, solo alinate. Ecco, in quella situazione lì mi sento proprio sereno, mi sento felice. Mi viene voglia di guardare fuori, di parlare con i miei vicini, mentre di solito cerco di rintanarmi in un libro senza mai togliermi l'iPod dalle orecchie. E ho capito perché provo quella sensazione. È che sono contento di tornare a casa. Sì, sarà strano per uno che ama viaggiare, però per me quello è il momento più felice, qualsiasi mezzo di trasporto usi. Cioè, mi piace quando il viaggio finisce. E non dipende dalla bellezza o meno dei posti in cui sono stato, cioè dalla bontà delle cose che ho fatto, è solo che mentre torno percepisco che avrò tutto il tempo per pensare a cosa è successo e avrò la possibilità di fare paragoni con la mia vita quotidiana. Sapete che a me piace fare le liste, no? Ecco, mi piace anche fare l'elenco dei pro e dei contro, mi piace fare i confronti. Alla fine viaggiare serve a questo. Anche se il più delle volte sei stato in luoghi più belli, più civili, più interessanti, più stimolanti, è solo tornando a casa che me ne accorgo profondamente. E poi, io a volte sono un po' pavido, e quando una cosa eccezionale finisce e posso tornare a ciò che conosco bene, sono felice. Sapete, della felicità dei bambini, oppure dei grandi che fanno i bambini e guardano tipo le serie televisive, perché alla fine la ripetizione rassicura, no? Cioè guardare Willy il Coyote 1000 volte, anche se sai sempre come andrà a finire, ha un senso. Proprio come guardare La Signora in Giallo. E La Signora in Giallo la guarda ancora, e mi dà molta sicurezza. Step to the right, three to the left. The moon so high, the wind so fast, makes us feel like goddesses. One, two, three, set, ready, set, go. May heaven help you if you're slow. We're gonna run like bandits. Wild flames are chasing, racing, racing, racing, racing. L'ho detto, no? Sono tornato domenica da Newcastle. E a dire la verità, stavolta non è che abbia trovato una città così incredibilmente migliore della mia. Sarà perché ha sempre piovuto, perché l'albergo puzzava un po' di fumo. Insomma, ho fatto viaggi più esaltanti. Sulla via del ritorno, però, già un po' sollevato, comunque in tensione per il volo, ho conosciuto una ragazza. A uno dei bar dell'aeroporto. Mentre cercavo di entrare nello stato di semi-incoscienza che mi consentisse di affrontare le hostess senza figurarmele come dei boia. Ecco, mentre sono lì scopro che il mio volo è previsto in grave ritardo. E ciò chiaramente aumenta esponenzialmente il mio stress. Ordino quindi un cappuccino e penso che in certi casi essere astemio è veramente una fregatura. Di fianco a me si siede una tizia che ordina una birra. Ha un aspetto molto olandese. Molto formale, tutta perfettina. E io che di solito sono attratto dalle bellezze mediterranee, prendo atto che tornare in Italia ha enormi vantaggi. Poi sento una voce femminile che mi chiede: scusami, hai dei soldi da prestarmi? È l'olandese, con la birra in mano, che mi sta parlando, però mi parla in un italiano perfetto, anzi, con un leggero accento emiliano, che io ho sempre adorato. Quindi non è una perfettina olandese. Gli chiedo di quanti soldi ha bisogno, lei si scusa subito dell'invadenza, insomma, siccome anche il suo volo è in notevole ritardo, ha perso il cellulare, aveva speso gli ultimi soldi in telefono pubblico per avvisare i suoi che potevano prenderla con comoda, e quindi, insomma, non ha più soldi. Mi dice che ha bisogno solo di un paio di euro per pagare la birra che ha preso, e che non pensava di non averne più. La guardo un po', c'ha una bella valigia, e pare sinceramente in imbarazzo. Io le pago la birra e le guardo le gote rosse. E allora mi ringrazia e cominciamo una lunga chiacchierata. La cosa che mi piace è che ogni volta che potrebbe dire una banalità, dice una cosa interessante. Ogni volta che potrebbe sviare il discorso, invece affronta il problema. Ogni volta che potrebbe apparire sciocca e banale, si dimostra interessante. Arrivato allo stadio dell'innamoramento, prendo un secondo cappuccino. Non le chiedo se le piace il calcio, non le chiedo se è interista, perché non vorrei rovinare tutto, è già diventata la donna perfetta. Lei è una studentessa di veterinaria, di ritorno da uno stage in Olanda, e io mi sento un porcospino che ha molto bisogno di cure. Parliamo di città e mi dice che la Spagna le piace moltissimo, ma non Barcellona. Poi afferma: sono stata a vedere il Real Madrid un mesetto fa, ma solo perché mi piace Mourinho. Tu lo sai chi è Mourinho, vero? Ecco, a quel punto chiamano il suo volo e io inizio a sudare, perché lei è chiaramente la donna che il destino ha riservato per me, e c'è una voce dall'alto che le sta ordinando di andarsene. Lei mi dice che è stato un piacere conoscermi e grazie per il prestito, e che l'Italia è piccola e magari ci si rivedrà. E invece no, l'Italia è enorme e io non la rivedrò mai più. Ne sono già convinto mentre la vedo avviarsi verso il suo gate, dopo avermi dato un bacio sulla guancia al profumo di birra. Dopo un'ora sono partito anch'io e fino all'atterraggio non ho pensato altro che a lei, altro che paura di volare. Poi in fila ai taxi ho incrociato, così casualmente, lo sguardo di una giovane mamma. Era meravigliosa. E lì ho pensato a quante volte ho vissuto innamoramenti fugaci, fatti di sguardi, di qualche parola. E quante donne del destino mi sono passate davanti senza che io riuscissi a fermarle. O anche semplicemente compagni di viaggio che non incontrerò mai più. Un po' come l'olandese Emiliana alcolizzata laureata in veterinaria, forse. La mia donna giusta era forse una di quelle che tante volte ho incrociato. Oppure, non lo so, in fondo ancora un po' lo spero, perché sono un romantico venuto un po' male. È sempre andata così, perché quella giusta deve ancora arrivare. L'unica cosa che so è che l'importante è non cercarsi. When I'm with you, I wish I didn't have to go. Sweetheart, I wish that I didn't have to go. Sweetheart, I wish that I didn't have to go. Sweetheart, I wish that I didn't have to go. (800) 24 00 24, oppure 349 238 6666. Ci sono dei messaggi che mi raccontano che, giustamente, anche facendo il motociclista, viaggiare in moto ed incontrare un motociclista solitario come te raccontando storie della strada. Michele: 1995 in Scozia incontrai in treno un vecchio magro magro senza biglietto e dall'aspetto difficile. Era un reduce e conosceva Anzio. Ciao Franco. Chi incontri viaggiando lo consideri spesso intrigante ed interessante, perché non riesci a conoscerlo veramente a fondo. Diego: sarà, però oggi ho voglia di sentire proprio storie di compagni di viaggio. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Mi è arrivata prima un'altra mail, questa è arrivata proprio come mail. Io sono qui, chiocciolaradio24.it, e dice così: 10 dicembre del 2007, ero sul volo Roma-Londra, stavo partendo sempre per il mio RTV. RTV. Cos'è RTV? 349 238 6666, se qualcuno sa cos'è un RTV. Ed in preda all'inaspettata paura di non sapere esattamente dove stavo andando, una voce seduta al mio fianco ha asciugato magicamente... Ho capito cos'è l'RTV, ho capito. Round the World, credo sia i voli che tu fai, che paghi una compagnia aerea e ti fai il viaggio andando in un'unica direzione. Credo sia Round the World, spero. Insomma, sento una voce seduta al mio fianco che mi ha asciugato magicamente le lacrime. Era un giornalista trapiantato a New York. Mi ha subito rassicurato su quello che stavo facendo e, per stemperare il mio ovvio spavento, ero sola, ha riempito la mia piccola agenda di diversi contatti di persone sparse nel mondo. Non li ho mai usati, ma una volta arrivata a New York ho avuto, ed ho sempre, tuttora, quando ne voglia, un letto sulla 75esima strada a casa della mia carissima amica Raffaella, conosciuta casualmente tramite quel giornalista travestito da angelo. Starei volentieri con i piedi sul tavolo, ma per ora mi obbligano a tenerli sotto. Sono in ufficio ed il mio nome è Francesca. A bientôt anche a te, Francesca. 800 24 00 24, 349 238 6666. Ce ne sono aiosa di storia, ce n'è anche una di Paola. È sempre persone che viaggiano da sole. Estate del 2009, giro in solitaria alla Liguria. Tra i compagni di viaggio incontrati casualmente, una mattina mi perdo clamorosamente su una mulattiera. Dopo 3 ore di camminata, accarezzo l'idea di tornare indietro, e te credo, Paola, dopo 3 ore, quando in mezzo a un oliveto trovo una casa, l'unica. Entro dal cancello aperto e trovo una famiglia in cortile. Quattro adulti e un ragazzo di più o meno la mia età. Gli chiedo informazioni, iniziamo a chiacchierare, mi offrono un caffè e gli racconto dove vorrei andare. Alla fine mi fermo a pranzo, ci passo insieme tutto il pomeriggio. Mi accompagnano in macchina all'agriturismo dove passavo la notte. Il ragazzo si ferma a cena lì con me, vino e allegria. Il giorno dopo mi sono spostata. Non ci siamo lasciati i numeri, io sinceramente ho dimenticato anche il nome, ma il ricordo che conservo è quello di un'esperienza, una giornata davvero strana e bellissima. 800240024 oppure 349-238-6666. Io ho un amico molto caro. Si chiama Rosario, però lo chiamo semplicemente Sasà. Sasà da qualche tempo ha intrapreso quest'idea dei viaggi a piedi. Un po' va di moda e un po' lui mi ha spiegato perché li fa e quindi credo che abbiano un senso, soprattutto per lui. Ed è andato a fare quello più famoso, che è il Cammino di Santiago. La cosa che lui mi racconta è che quello è veramente un viaggio in cui ci si trasferisce non solo a piedi, ma ci si trasferisce con delle persone da un posto all'altro. È molto lungo e prende del tempo. E camminando non si fa altro che parlare con i compagni di viaggio, che sono persone che veramente fanno dei tratti di strada con te. Poi dice, ogni tanto capita che li abbandoni perché loro vanno più veloci di te o tu vai più veloci di loro, però sono persone con cui tu dividi un pezzo della tua vita che tu ti sei scelto, e ti sei scelto in maniera oculata, al punto che sei andato a fare quanti chilometri di cammino. È una cosa che lui mi racconta sempre parlandomi di questo viaggio, è che oltre a camminare e oltre a avere tempo per pensare, si ha molto tempo per raccontarsi coi compagni di viaggio delle storie. La cosa bella è che camminando non puoi fare a meno di raccontare storie, insomma. Tu mi raccontasti che una sera questo Dominique ti raccontò questa storia, che era la storia di questo tizio in una locanda. Quella è una storia di Walter Benjamin, cioè un tipo, diciamo, in una locanda, diciamo, in un villaggio sperduto, dove sono tutti che si conoscono, eccetera, bevono, mangiano, chiacchierano e via dicendo. C'è un tizio che è invece con tipo a piedi nudi, tutto lacero, che c'ha un mantello addosso, incappucciato, che sta in disparte e che nessuno conosce. A un certo punto nella locanda scoppia un gioco e un ragazzo dice, il più giovane dice, facciamo un gioco, dice, ognuno a turno dice il suo desiderio, se, capito? E quindi tutti dicono, io vorrei avere un sacco di soldi, io vorrei invece una piallatrice nuova, io vorrei che mia figlia si sposasse, sì. E fanno il giro. E rimangono tutti felici e contenti e manca solo il vecchio in disparte, all'uomo misterioso. Che nessuno, diciamo, conosce. Che nessuno conosce, e a un certo punto il ragazzo gli si avvicina e fa, tu qual è il tuo desiderio? E lui incomincia a dire, io vorrei essere un re, signore di uno stato immenso, che fosse preso nel cuore della notte dall'assalto del nemico, e il nemico arrivasse a spalancargli la porta della camera da letto, lui avesse a malapena il tempo di prendersi una camicia e corresse fuori dal palazzo, seguito dai cani e dai lupi, e scappasse e infilasse nel bosco, attraversasse un fiume, si ferisse con i piedi con i rovi, eccetera, e entrasse in un villaggio dove c'è una locanda, e dentro la locanda potersi sedere in un angolo in disparte, solo. Anche c'è il gelo, ovviamente, finché il ragazzo rompe il silenzio e dice, ma lei da questo desiderio cosa ci avrebbe ricavato? E il vecchio lo guarda e gli fa, la camicia. Io sono qui. Questa finalmente è la prima foto che è un esperimento spazio-temporale. È la foto di una cucina, scattata evidentemente da una macchina fotografica su un cavalletto, comunque in una postazione che è sempre quella, che però è divisa in fasce verticali che sono diverse per colori. Alcune sono a colori, altre sono in bianco e nero, ma anche come luce e come contenuto della foto. Detta banalmente, sono diverse foto dello stesso punto, però divise in strisce e montate tutte insieme. Quindi quello che viene fuori è la cucina di una casa, anche piuttosto moderna, direi. Una cucina in parte bianca e in parte scura, potrebbe benissimo essere la solita cucina IKEA, con una bella finestra illuminata. Però poi quello che si vede al centro, quello che c'è sul tavolo, quello che c'è sui fornelli, la persona che è a metà all'interno della cucina è divisa per periodi di tempo diversi. Non so se mi sono spiegato, però più o meno è così. C'è ad esempio una donna che sta lavorando ma si vede solo in parte, c'è un tagliere che è sul tavolo ma si vede solo in una striscia, ci sono delle polpette di carne o dei ravioli che però sono in fase diverse della preparazione. Per il resto invece è una semplice cucina, ma divisa nello spazio e nel tempo. Mi chiamo Lucio Bosio, ho 31 anni. Noi siamo qui mentre prepariamo i ravioli, ma soprattutto nel tempo. Io sono qui. Vedi che l'avevo capito, che Lucio era uno che... c'è qualcosa, c'è un nostro credo filosofico. Andate a vederla la foto, è sul sito di Radio 24, alla pagina Io sono qui. Ma andate a vederla anche sul profilo Facebook. Tra l'altro io credo che sul profilo Facebook credo di aver raggiunto il tetto massimo di foto caricabili su una cartella. È possibile? Lo chiedo anche a Vittoria, che oggi non è più vestita come in un spettacolo di Goldoni, ma come una collegiale. Sì, credo che 200 foto sia il tetto massimo. Ma niente, faccio un "e voi dove siete?" punto 2.0, banalmente. E potete continuare quindi a inviare le foto, che tanto già lo state facendo. Io le piglio e le butto direttamente nella cartella "e voi dove siete". Mi raccomando, scrivetemi. Se mi scrivete "io sono qui", mi fa piacere. Se però insieme a "io sono qui" mi scrivete il posto dov'è, voi chi siete e cosa ci facevate lì, è semplicemente un'informazione più completa. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Si parla di storie di viaggio, ma soprattutto di compagni di viaggio. Ho incontrato un regista teatrale newyorkese sul treno Olbia-Cagliari nella primavera del 1996. Fra le altre cose lavorava con i carcerati. Io, lui e un altro ragazzo abbiamo dialogato per 3 ore in un mix di italiano, inglese e francese. Ciao, Giuseppe. PS, ho iniziato Infinity Jest, grazie per il consiglio. In bocca al lupo, Giuseppe, facci sapere quando lo finisci. E poi ci sono un paio di messaggi che riguardano autostop. Anche io, preso dalla solitudine del viaggio, ho caricato 2 autostoppisti che però mi hanno rapinato lasciandomi a piedi nella notte, Graziano. E poi, da ragazzo, una volta ho fatto l'autostop e ho avuto un passaggio da una persona che poi ho scoperto essere il ladro della macchina su cui viaggiavo. Non è la prima volta che sento questa cosa, perché credo che visto che quando rubi una macchina sei abitualmente da solo, se carichi con un autostoppista la polizia non ti riconosce. Conosco di una persona molto cara che ha addirittura la fedina penale sporca perché la polizia ha fermato la macchina e lui era in macchina con uno che aveva rubato la macchina, banalmente. 800 24 00 24. Matteo, hai bisogno di gnocca? Ti ringrazio, fai qualcosa. Nel 96, durante un interrail, per poco non mi becco favoreggiamento all'immigrazione clandestina per aiutare un ragazzo. Alessio. Pronto, Alessio? Pronto, Matteo? Ciao, come stai? Ciao, bene. Che sì. C'è? Che c'è? No, c'è qualcosa che non va, Alessio. Dimmelo subito, perché non voglio lasciare cose in sospeso tra di noi. No, adesso è tutto bene. Insomma, sono passati 15 anni, ma anche all'epoca, insomma, non è successo nulla di grave. Ma esattamente com'è andata? Ma quando io avevo... mi sono sempre piaciuti, insomma, le vacanze on the road. E quando io avevo 20 anni, nel 96, i voli low cost non esistevano, quindi si usavano altri mezzi. E l'interrail. Quindi abbiamo fatto un interrail bello sfasciato in giro per l'Europa, non so, da Amsterdam a Parigi. Poi scendemmo verso la Spagna, verso Granada, e stavamo tornando... Chiaramente pieni di qualsiasi sostanza, immagino. Beh, sì, assolutamente puliti. Ma assolutamente puliti in che senso? Che l'avevate assunta tutta, quindi addosso non avevate niente? Tu sei un po' troppo curioso, Matteo. Va bene, poi... Alessio. Certo, comunque, poi siamo in onda. Sì, all'epoca poi, quando io avevo 20 anni, anche adesso viaggio molto da solo. Però credevo anche adesso, assumo sostanza. Ne facevo molti di più, comunque. Chiaro. Sarà la spensieratezza dei 20 anni. Sarà, e comunque sarà. Tornavamo. Chi è che hai fatto entrare in Italia, scusami? Ma diciamo che noi stavamo tornando, appunto, dopo un mese tornavamo a Roma, e quindi eravamo sul treno che da Barcellona rientrava in Italia. Mm-hmm. Avevamo fatto cambio a Barcellona perché venivamo dall'Andalusia e avevamo incontrato alcuni soggetti, non so, un ragazzo di Genova, 2 di Torino, io stavo con la mia ragazza all'epoca. E praticamente eravamo in Francia, non so, forse mancavano un centinaio di chilometri per entrare in Italia, e entrò nel nostro scompartimento fatto da 6 posti un ragazzo un po' impanicato. Era vestito bene, pulito, ordinato, infatti non si capiva bene da dove venisse, e sembrava come se fuggisse da qualcosa. E chi era, Alessio? Dimmi chi era. Era un insegnante rumeno di 25 anni, all'epoca la Romania non era in Europa. Non era, quindi... certo, e quindi era clandestino, cioè senza documenti. E com'è finita? Niente, è finita che lui, i controllori avevano mangiato la foglia che lui stava sul treno senza biglietti, quindi lui era un po' in fuga. E noi lo nascondemmo tutto a uno dei sedili dove eravamo seduti, appunto, 3 da un lato e 3 dall'altro. Sì. E lo nascondemmo sotto, poi con le gambe tutte e 3 stretti così, il controllore entrò nel nostro scompartimento, si accorse che eravamo in regola con i nostri biglietti Interrail e non si accorse di nulla del tipo che viaggiava. Quindi ce l'ha fatta, cioè è arrivato in Italia? Sì, no, non solo è arrivato in Italia, ma lui proprio arrivò fino a Roma, non so, aveva un conoscente che era già penetrato appunto nel territorio di Roma e fu contentissimo, ci ringraziò immagino. Morte, perché poi noi gli offrimmo da fumare, da bere. Beh, ovviamente, certo, quel gruppo. Ma l'hai più sentito? No, chiaramente no. Io poi gli lasciai, non solo io, gli lasciamo i nostri numeri di telefono, però sì, vi richiamo, se hai bisogno di qualcosa, guarda, chiama. È un ragazzo molto molto simpatico, pieno di speranze verso il futuro. Vabbè. Ecco, sognava l'Italia e andò bene quindi quella volta. Alessio, mi raccomando, metti la testa a posto che adesso non c'hai più 20 anni. Beh, sono 35. Pure io, figurati. Ti abbraccio Alessio, okay, grazie mille, abbraccio. Buona giornata. Ciao. Andiamo a Ferrara da Giacomo. Pronto Giacomo? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Tu fai del volontariato, vedo. Sì, faccio del volontariato d'estate soprattutto, sono delle esperienze di alcune settimane. Beh, che tipo di volontariato è? Tipo costruire i muri? No. Esatto, sì, sì, quello. Un volontariato abbastanza pratico, si chiamano proprio campi di lavoro e solidarietà e si fa tipo i muratori per 2 settimane, sono esperienze. Si puliscono le spiagge? No, sì, ma più che altro, come dicevi te, si puliscono ambienti interni e esterni, ma proprio perché si fa la calce, si costruiscono dei muri. E dove si fanno queste cose, Giacomo? Ma guarda, io l'ho fatto sia in Italia, sia in Europa, e poi un posto più lontano in cui sono andato è in Guatemala. E dimmi di un compagno di lavoro in questo caso, con cui magari sei rimasto in contatto, o anche no, che però un pochettino qualcosa ti ha lasciato. Ma guarda, io un'esperienza che ricordo proprio volentierissima è stato un campo paradossalmente molto vicino qui a Ferrara, nel Bolognese, in una casa famiglia dove eravamo un gruppo sia di volontari italiani, però di volontari anche olandesi, austriaci, dalla Repubblica Ceca e dalla Germania. Mm-hmm. Io poi sono rimasto in contatto con loro perché diciamo, una volta in cui sono stato 3 mesi a Lisbona, tornando da Lisbona e tornando verso l'Italia, ho fatto un Interrail e sono stato a dormire da ognuno di loro in questi paesi, appunto, passando da Portogallo, Spagna, poi però arrivando alla Francia, Giacomo, Olanda. Scusami, quanti anni hai adesso? Io ho 29. E cosa fai nella vita? Nella vita lavoro qui a Ferrara in un'associazione. Sempre volontariato? Sì, però, però lavori stavolta? Sì, esatto. Va bene, Giacomo, grazie mille, buona giornata. A te, ciao. Alla prossima. A Cremona da Morena, che invece ha una storia che mi sembra sia più breve di quella di Giacomo. Pronto, Morena? Certo, sì, è più breve. Niente, come dicevo appunto, io tornavo da Parigi, ho cambiato Milano perché dovevo recarmi a Brescia poi per andare a Cremona. E su questo treno mi sono trovato a un certo punto da sola, nello scompartimento, insieme a un ragazzo. Considera che avevo avuto 32 anni, 33 anni. E lui più o meno? Era più giovane, un ragazzo giovane, biondo, coi boccoli. Coi boccoli addirittura. E qui sì, la fantasia delle donne all'ascolto chiaramente... la fantasia delle donne all'ascolto chiaramente vagherà, essendo biondo coi boccoli, di dove? Era carino. Però è più quasi come un bambino, Morena, lo stai descrivendo. Beh, in effetti per me era così. Vi siete detti qualcosa? Ero lì, no. Niente. Io leggevo il libro... Lui tirava fuori le sue cose dallo zaino, alcune foto così, qualche volta mi è scappato l'occhio, perché sai, vedi le foto, alcune cose, ma proprio Non l'ho guardato. È la curiosità delle foto degli altri. Esatto, né tantomeno io sono un tipo molto avvenente, non sono mai stata, vabbè, tranquillo. Cos'è successo, Morena, quindi? Niente, a un certo punto io arrivo a Brescia, scendo, lui tira giù il finestrino, intanto che passo mi dà 1000 lire e mi dice, ciao, c'è il numero di telefono, chiamami. E l'hai mai più chiamato? No. Ma come no, Morena? Ma ti è mai capitata una roba del genere? Era piccino. Vabbè. E tu quanti anni hai adesso, Morena? Adesso ne ho 56. Ma tu sei, te le chiami da Cremona, ma sei di Brescia, chiaramente. No, io sono di Cremona. Ah, sei proprio allora ero scesa a Brescia perché avevo preso il treno da Brescia. Va bene, Morena, grazie mille, la prossima volta fai sta telefonata. Ok, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a lei, grazie però anche a Vittoria Mussini che oggi è vestita in maniera impeccabile, grazie a Paolino Corleoni, grazie a Tiziano Bonini che oggi non c'è, ma domani... ci sarà, no? Oggi ho sentito storie di viaggio finalmente, ho sentito storie di compagni di viaggio e ho realizzato che è già il momento di ripartire. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?